hai fatto? Oh, che nebbia bassa, accende! Parla dunque! Fagli un tratto! Lasciatemi, buon uomo! E son tutta fuori me! Compatisca la signora! Di lasciatemi! Questa collera perché? Oh, che voglia! Compatisca la signora! Questa collera perché? Sposarti di buona ora, Via, a presto, a presto! Perché non sono in grado, zittendo si spietata. Io farò mio male. Oh,